Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Allora, avete avuto qualche idea per il lancio della ruota? Sappiamo che è difficile perché non sono viste come una tecnologia emozionante, anche se sono originali. Beh, la tecnologia è un richiamo scintillante. Ma a volte il pubblico può essere catturato da qualcosa che va al di là di un lampo, se si riesce a legarlo sentimentalmente al prodotto. Il mio primo lavoro l'ho fatto per una pellicceria insieme a un vecchio copywriter greco di nome Teddy. E Teddy diceva che la cosa più importante in pubblicità è la novità, che crea un desiderio. Non si può lanciare qualunque prodotto come se fosse una lozione. Per questo bisogna creare un legame più profondo col prodotto. La nostalgia è delicata, ma potente. Mad Men è una serie TV americana di grande successo, ambientata nella New York degli anni 60, che racconta le vite di alcuni pubblicitari dell'agenzia Sterling Cooper di Madison Avenue. Tra nuvole di fumo di sigaretta e superalcolici, negli uffici trionfano maschilismo e corruzione, malizia e soprattutto una competizione sfrenata. L'etica non è una cosa presa in considerazione. Siamo nel pieno del boom economico, il capitalismo trionfa e il consumismo nascente fa sì che la pubblicità sia nella sua età dell'oro. In America e anche nel resto del mondo, Italia compresa. Se Henry Ford ha detto che la pubblicità è l'anima del commercio, il comico Marcello Marchesi ha ribattuto dicendo che la pubblicità è il commercio dell'anima. Come a dire, da un lato un'arte, dall'altro un calcolo, da un lato uno spirito creativo, dall'altro il mezzo cinico più efficace per guadagnare di più. La pubblicità in fondo ha radici antiche, almeno in forma di propaganda. A Pompei, sui muri delle case romane distrutte dal vulcano del 79 d.C., si possono ancora leggere delle scritte che invitano i passanti a votare per un certo candidato alle elezioni. Di pubblicità vera e propria, però, si può parlare solo dopo l'invenzione della stampa. Il primo annuncio compare su un giornale nel 1630 ed è un semplice richiamo al nome del prodotto. Ma è con la rivoluzione industriale che aumentano le merci e il modello pubblicitario diventa una scienza che usa tecniche raffinate e si avvale dell'apporto di psicologi, artisti, disegnatori e registi famosi. Insomma, come ricorda l'esperta di comunicazione Anna Maria Testa, in gioco ci sono grandi professionalità. Fino a fine anni Ottanta, dentro le agenzie, anche dentro le agenzie internazionali, dentro le grandi agenzie, c'era uno spirito e un orgoglio professionale, un'identità professionale e una trasmissione dei saperi e delle competenze davvero forti. Quando io sono entrata in pubblicità, non si usciva dalle scuole. Chi sapeva scrivere benissimo entrava in un reparto creativo e imparava lì. Chi sapeva disegnare benissimo e sapeva benissimo di grafica, e posso dire che ho una grande nostalgia degli architetti, degli art director che disegnano benissimo, entrava in un reparto creativo e imparava il suo mestiere. Parole e immagini, slogan e cartelloni per arrivare a tutte le nuove forme di comunicazione che oggi passano dalla rete. La pubblicità non è solo fantasia, ma anche strategia, analisi e pianificazione. Il segreto, facile a dirsi ma per nulla a farsi, è puntare a sorprendere, suscitare curiosità in chi legge, ascolta e osserva attraverso frasi ad effetto e immagini che catturano. E come spesso succede, la semplicità e la sintesi non sono un punto di partenza, ma un punto di arrivo. Lo sa bene il nostro primo protagonista di oggi, che di una linea disegnata ha fatto la sua fortuna. È uno dei più grandi disegnatori italiani e il suo nome è Osvaldo Cavandoli. Osvaldo Cavandoli. Il mio desiderio nel cinema animazione era di arrivare alle sintesi. Prendi una matita e disegna un lago azzurro. Buttaci i pensieri, tutti i dispiaceri e sorridi al mondo intero. Sopra un verde prato traccia il viso amato. Dagli tanti baci, baci, baci, baci. Prendi una matita tutta colorata e disegna cieli blu. Nascere a cavallo di un anno con l'altro, anche oggi, ma soprattutto una volta, significava una scelta per i papà che correvano all'anagrafe. Registrare il figlio nell'anno prima e fargli compiere virtualmente già un anno, oppure mettere come data il 1° gennaio. È stata questa seconda ipotesi la scelta del signor Cavandoli quando il piccolo Osvaldo è venuto alla luce nel 1920. Siamo a Maderno, sponda occidentale del lago di Garda, uno degli scorci più belli per i turisti e per le quasi 10.000 anime che ci abitano. La famiglia Cavandoli, però, si trasferisce presto a Milano, la città di adozione di Osvaldo. È qui che cresce e frequenta tutte le scuole, fino a quando, a 18 anni, decide che di studiare ne ha abbastanza e che è arrivato il momento di andare a lavorare. Io ho cominciato a 18 anni perché la scuola per me sì, mi piaceva, ma preferivo latino, figurati. E allora mio padre conosceva aveva un direttore dell'Alfa, che era un suo cugino, e ha detto: non prenderesti mio figlio come apprendista? Disegnavo abbastanza bene, e ho fatto i corsi di scuola di allenamento professionale, no? E allora sono andato lì e ho cominciato a fare anche lì come apprendista. Pian pianino poi ho cominciato, era l'ufficio tecnico, officina, cioè si disegnavano attrezzature per la lavorazione, allora erano ancora manuali. Capelli ondulati, profilo importante, espressione naturalmente buffa, Osvaldo è una di quelle persone che riescono a portare il buon umore ovunque vanno. I tempi non sono facili, tra la guerra e la fame, ma lui è uno che non si abbatte di fronte alle difficoltà. Dopo essersi fatto le ossa all'Alfa, viene assunto alla CEMSA di Saronno, che sta incominciando anche lei a fare automobili, ma che soprattutto è in piena produzione di armi leggere e proiettili. Osvaldo, appena un attimo di pausa, lo dedica alla sua attività preferita. E mi piaceva, disegnavo, facevo anche dei disegnini così, non tecnici, non meccanica. E facevo le caricature ai miei colleghi, no? Poi quando arrivava il capo ufficio, chiuso dentro nel cassetto. 8 settembre 1943, ore 19:45. Tutti gli italiani, chi sta combattendo e chi aspetta a casa, stanno con l'orecchio attaccato alla radio per non perdere nemmeno una parola del maresciallo Badoglio, che esattamente un'ora dopo il proclama del generale Eisenhower, lanciato da Radio Algeri, comunica che l'Italia ha chiesto un armistizio alle forze alleate e la richiesta è stata accolta. Brindisi diventa sede del governo e quindi capitale del Regno d'Italia. Tutto troppo in fretta per le centinaia di migliaia di soldati abbandonati a se stessi in un momento tra i più tragici dall'inizio della guerra. Mentre si formano le prime organizzazioni partigiane che contrastano il nazifascismo, molti cittadini devono nascondersi o scappare. Tra questi c'è anche Osvaldo, che cerca di superare i giorni terribili con le sue risorse più potenti. A un certo punto è arrivato 8 settembre, mi sono nascosto un po' e poi ho cominciato a fare dei disegni sulla guerra. Sulle cose di guerra, so, il triciclo che serviva come taxi, con quello che pedalava, i vecchietti al parco, la coda per quei italiani, quei buoni per comprare la roba. E l'ho proposte a una ditta, a una cartoleria, diciamo, la grossa cartoleria sotto la galleria che mi pare fosse Magli. Le vignette di Cavandoli sulla guerra riescono a divertire, nonostante il tema, nonostante il dolore che è ancora vivo e pulsante in chiunque se le trovi tra le mani. Eppure, la leggerezza sorprendente con cui lui riesce a raccontare la morte attraverso la celebrazione della vita conquista tutti. Si sparge la voce tra gli amici, cominciano ad arrivare le richieste e le prime soddisfazioni. Anche se il buon Cava, così lo chiamano tutti e così si sarebbe presto firmato, non guadagna una lira. La sua non è una famiglia particolarmente facoltosa e non avere un lavoro comincia a diventare un problema. Così Osvaldo decide di rimboccarsi le maniche, di mettere i suoi sogni nel cassetto e di cercarsi un posto che gli permetta di sbarcare il lunario. Il destino però è dalla sua parte. Un giorno, mentre è seduto al tavolo della cucina, giornale davanti e carta e penna per segnarsi gli annunci interessanti, si imbatte proprio in qualcosa che sembra fare al caso suo. La Pagot Film, specializzata in film di animazione, sta cercando un disegnatore. Il mio grande maestro, devo dire, quello che mi ha indirizzato a questo tipo di lavoro, questo abbastanza bello e piacevole, creativo, è stato Nino Pagot. Nino Pagot perché ho trovato, ero disoccupato, ho trovato un'inserzione sul giornale, cercasi di disegnatori, cinema animazione, perché c'era un lungometraggio da finire che erano i Fratelli Dinamite. Allora ho fatto la prova, ho detto ma sì, va, e mi sono messo a fare il lavoro di apprendista, nel senso che è il lavoro di intercalazione, cioè tra un disegno di animazione e l'altro fatto dall'animatore c'è la frangia di movimento per legare i due movimenti. È cominciato da lì. Sinonimo di animazione in Italia, la Pagot Film è stata fondata nel 1938 sotto la guida di Nino, affiancato dal fratello Tony e dai figli Marco e Gina. Oltre al mitico Calimero e al prode Grisù, alla Pagot si deve il primo lungometraggio d'animazione italiano, proprio quel I Fratelli Dinamite, con il quale Cavandoli inizia il suo percorso. Il primato, a dirla tutta, è stato a lungo conteso con La Rosa di Baghdad di Anton Gino Domeneghini. Entrambi in Technicolor sono stati presentati alla Mostra di Venezia lo stesso anno, 1949. Ma la registrazione alla SIAE viene in aiuto perché l'opera di Pagot porta il numero progressivo 672, quella di Domeneghini il 799. Osvaldo è uno dei più giovani, di certo uno dei meno esperti, ma l'ambiente, come ricorda l'inventore del Signor Rossi Bruno Bozzetto, è speciale. Ci trovavamo ai festival, ci si conosceva, si viveva sicuramente un'atmosfera meno competitiva e industrializzata di quanto non sia oggi. Negli studi della Pagot si lavora a pieno regime, in alcuni momenti tutti insieme, in altri da soli, ma di certo c'è un fermento tale che per forza uno impara dall'altro. Osvaldo, che è sveglio e molto attento, non perde occasione per cogliere una suggestione che gli può arrivare da qualsiasi cosa. L'espressione buffa di un collega, il titolo di un libro, un oggetto che nella sua testa prende vita. Al di là dell'abilità manuale, Cava sta già mettendo a punto una particolare caratteristica che tutti i grandi fumettisti, a partire dall'amico Bruno Bozzetto, gli riconosceranno. La capacità di essere narrativo, di non affidarsi soltanto a un tratto fine a se stesso, ma di raccontare storie con una matita. Cavandoli è una persona che sa raccontare delle storie ed è una cosa che apprezzo, perché in un mondo come il nostro, in cui tanta gente semplicemente muove dei disegni e crede di fare del disegno animato, credo che lui rappresenti sicuramente un'eccezione. Poi arriva la crisi. I Fratelli Dinamite è ormai finito da un po' e la Pagot decide di mettere le sue animazioni a servizio della pubblicità. Si guadagna di più, ma il lavoro richiede meno teste e meno mani. Inevitabile per gli ultimi arrivati essere mandati a casa. Succede anche Osvaldo, che con il suo maestro resta comunque in ottimi rapporti di amicizia e stima reciproca. Deve però inventarsi qualcos'altro. E adesso che ha scoperto che è il disegno la sua strada, non vuole accontentarsi di niente di diverso. Si ricorda di un suo amico di infanzia con il quale è sempre andato d'accordo, Ugo Moroni, e lo contatta per proporgli di buttarsi insieme in una nuova, rischiosa ma affascinante avventura, quella dei pupazzi. Avevo un amico di infanzia, da piccolini giocavamo nei cortili di casa, il quale era ufficiale dell'aeronautica, eccetera, ed era un ottimo fotografo, bravissimo. E allora ci siamo messi e ho detto facciamo i pupazzi. La tecnica del cinema d'animazione era conosciuta. Quella dei pupazzi non si sapeva come venivano fatti, con cosa, con quale materiale. Sono gli anni 50, un'era ben lontana dal digitale a cui noi siamo abituati, e la Puppet Animation fa i suoi primi tentativi. Si tratta di film in cui il movimento viene infuso a un oggetto volumetrico attraverso la tecnica della stop motion. Senza computer bisogna per forza realizzare questo tipo di animazioni mediante la ripresa fotogramma per fotogramma, che poi è la stessa che si usa per tutto, dai disegni agli oggetti di qualsiasi tipo. Si impressiona su un fotogramma di pellicola l'immagine del soggetto posto di fronte alla macchina da presa, quindi lo si modifica. In questo caso la plastilina viene modellata, si cambia la bocca, che da seria ride e così via, per passare poi al fotogramma successivo. Il problema, casomai, è come realizzare i pupazzi. Osvaldo, con l'abile manualità di chi si diverte da sempre con l'aeromodellismo, costruisce corpi, scenografie, macchine. c'era una struttura in metallo, tutte le parti che corrispondevano alle giunture del corpo umano erano fatti, cioè, fatti in filo di piombo, che il filo di piombo piegandosi non ritorna al punto di prima, però rimane fermo. Veniva ricoperto in gomma piuma, e questo, ecco, il personaggio si girava, muoveva le braccia, girava la testa, si piegava. Nasce Pupilandia, con la sua produzione artigianale interamente gestita da Cavandoli e Moroni, che si occupano di ogni aspetto, dalla creazione del pupazzo alle migliorie tecniche, che gira tra il 1950 e il 1957 una ventina di film per la pubblicità, tra i quali Pinocchio, La piccola guerra, Il nuovo cappuccetto rosso e Laggiù nel Far West. Amor, carezze, baci, però in vano e sol perché io ero alquanto bello, però liscio e sbarbatello, era odioso fu per me. Il giorno in cui io vidi sulla faccia mia la barba al fin spuntar. L'avventura entusiasmante di Cavandoli e Moroni si conclude quando il cinema comincia a richiedere meno film e soprattutto quando Moroni decide di tornare a dedicarsi completamente al suo lavoro di ufficiale. Cava, come lo chiamano gli amici, ricomincia a prendere lavori qua e là, come un freelance, si direbbe oggi. Il primo riferimento a cui rivolgersi è il mitico programma pubblicitario Carosello, che vuol dire divertimento, prestigio, ma soprattutto un'altra cosa. Carosello voleva dire quattrini. Cioè, io non è che morissi di fame, però lavoravo per gli amici. Marco Biassoni, umorista e disegnatore, ha bisogno di una mano per i cortometraggi di Lancillotto e Re Artù e chiama l'amico. D'altra parte, è una Milano diversa da oggi, quella della metà degli anni 60, dove sono le case di produzione e non le agenzie a dare le idee e dove i creativi sono legati più da rapporti umani che da logiche di opportunità. Anche la concorrenza è minore. Spesso i disegnatori sono autodidatti o vengono da percorsi alternativi. E forse anche per questo sono emersi dei tratti personalissimi, a prescindere dalle logiche del mercato. Osvaldo Cavandoli adesso ha raggiunto la maturità necessaria per fare qualcosa tutto da solo. Quello che ancora non può sapere è che con quel qualcosa è destinato a entrare nella storia. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo alla fine degli anni 60 e Osvaldo Cavandoli, per gli amici semplicemente Cava, è ormai un disegnatore stimato da tutti. Come personaggio è piuttosto originale. Grande barzellettiere, lo divertono gli scherzi telefonici e ne fa di memorabili, scegliendo come vittima preferita l'amico Bruno Bozzetto. Ama guidare nel traffico di Milano con un enorme naso finto dall'aspetto assolutamente realistico, per godere con espressione impassibile delle reazioni degli altri automobilisti. Partito come apprendista all'Alfa, ha fatto delle vignette umoristiche per gli amici una professione quando, dopo aver letto un'inserzione sul giornale, è stato assunto alla Pagot Film, caposcuola nei film di animazione italiani. Dopodiché si è dedicato ai pupazzi con la sua Pupilandia, per poi approdare a Carosello, dove con il collega Marco Biassoni ha dato vita ai cortometraggi di Lancillotto e di Re Artù. I cavalieri della tavola rotonda. Come mai non siete in atto? Perché manca Lancillotto. Può fare, siamo qui per mangiare e ci tocca aspettare. Va vallo a cercare. Foulard da playboy d'ordinanza, sigaretta sottile perennemente accesa e occhietti furbi di chi la s'allunga. Cavandoli, conclusa questa esperienza con Biassoni, sente di avere la competenza necessaria per ideare qualcosa di assolutamente personale. Tantomeno gli mancano spirito di iniziativa, entusiasmo e determinazione. È un freddo giorno di novembre del 1968, quando con i mascherini fatti rigorosamente da lui e la testa bassa sul tavolo a cui è affezionatissimo, stilizza sempre di più un omino che presto diventa un unico tratto. Si ispira, nelle numerose bozze, a Émile Cole, il geniale inventore francese del cartone animato, che però non depositò mai il brevetto. Lui faceva disegni che poi si muovevano, ma senza alcuna scenografia o contesto. Omini di soli contorni, muti, senza voce. Prova dopo prova, nasce così dalla matita di Osvaldo il primo storyboard con un personaggio che si chiama, provvisoriamente, Mr. Mark. E a me il fatto della bellezza, cioè della bella calligrafia, interessava relativamente, interessava il discorso. cioè scrivere male con una brutta calligrafia, però velocemente per riuscire a mantenere il concetto del discorso che vuoi fare. La linea, un segno grafico a forma di omino che si sposta nella sua essenzialità, è un controsenso in un periodo in cui il teleschermo trabocca di scenografie ricche e cartoni animati ben disegnati. E infatti, quando Cavandoli incomincia a proporre il suo lavoro a svariate agenzie pubblicitarie, tutte lo liquidano all'istante con un secco no. Nonostante l'opinione che hanno di lui, nonostante abbia già dimostrato di essere lungimirante, non si fidano di quella linea così semplice da proporre ai loro clienti. Allora giravano questi film, caroselli pieni di personaggi, di scenografie, e vedevano sta roba, sta righina, perché poi era fatta su pellicola così, in qualche modo. Cos'è sta roba? Un giorno però la linea arriva sui tavoli dell'agenzia pubblicitaria di una nota azienda di pentole, guidata da un imprenditore illuminato che ha ereditato il fiuto dallo zio, fondatore della casa di famiglia. Appassionato d'arte e buon collezionista, non ci mette molto a capire che quell'idea nasconde in realtà un concetto fortissimo. Il suo nome è Massimo Lagostina. Massimo Lagostina. Tutte cose giuste per un'altra generazione. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Non si può parlare di Massimo Lagostina senza fare la storia della sua famiglia, che l'ha portato a essere un imprenditore serio, lungimirante e colto. Per risalire alle origini dei Lagostina si possono spulciare i vecchi registri delle parrocchie. In questo modo si scopre che provengono dalla Liguria e precisamente da una frazione di un comune dell'entroterra genovese, Campo Morone, a una quindicina di chilometri da Genova. Da qui alcuni antenati si sono trasferiti a Gravellona Toce. Curioso che le carte riportino fino a una certa data Lagostena e poi Lagostina. Un cambio di vocale che è capitato spesso nelle trascrizioni burocratiche. In un ramo della famiglia fanno i trasportatori. Importano dalla Liguria le derrate giunte al porto di Genova d'oltremare e le trasportano sino a Domodossola verso il Passo del Sempione. Da qui riportano in Liguria o al porto di Genova le merci provenienti dal centro dell'Europa. Un intuito imprenditoriale che nella famiglia è una forte tradizione, come quando Carlo, che possiede i diritti di una sorgente d'acqua, stipula un contratto con la stazione per il rifornimento idrico dei treni della neonata linea Novara-Domodossola. Da qui a diventare direttore delle officine metallurgiche Calderoni a Casale Cortecerro, che forniscono posaterie e pentolame alla Casa Reale, il passo è breve. Ed è proprio a Casale che nel 1877 nasce Emilio, lo zio di Massimo, che è il nostro protagonista. Quante volte ho sentito lo zio che raccontava a tutti noi nipoti la storia della nostra famiglia. Stavamo sempre a casa sua, ci faceva sedere intorno al fuoco e cominciava con gli aneddoti. Tutti puntano su Emilio. Deve diventare ingegnere, rimanere nell'industria delle posate e arrivare dove gli altri Lagostina, che non hanno studiato, non sono potuti arrivare. Spirito goliardico, temperamento d'artista, nella Zurigo di fine secolo passa più tempo a godersi la vita che con la testa china sui libri. Ma è in gamba, intelligente, brillante e ce la fa. Diventato imprenditore, sposa la cugina Adele, ma da questo matrimonio, pur molto felice, non nascono figli. Tutto l'affetto della coppia va ai nipoti, tra i quali c'è Massimo, per il quale lo zio Emilio è un vero e proprio mito. La villa di Pendemonte per me era un punto di partenza verso l'avventura. Lo zio ci portava fin quasi in Svizzera in auto e poi continuavamo a piedi come in un'esplorazione. È da lui che ho imparato ad amare i motori, ad apprezzare il violino e la filosofia. Uno dei ricordi più belli della mia infanzia è quando ci ha caricato tutti sulla sua macchina inghirlandata per partecipare a un concorso di auto in fiore. La fanciullezza di Massimo trascorre serena in una famiglia unita dove nell'aria ci sono amore e risate. Ne è inevitabilmente influenzato il suo carattere, gentile e rilassato. Quello che lo attrae maggiormente dello zio Emilio è il fatto che sappia conciliare la tradizione con tutto ciò che è nuovo, che guarda al futuro. È a Emilio, infatti, che va il merito di avere intuito la possibilità di riciclare le reggette metalliche delle balle di cotone prima e i paletti da trincea a tortiglione poi, per produrre posate di ferro stagnato, economiche, di buona fattura e decorate con le immagini dei santi protettori delle diverse regioni italiane. Dal 1901 al 1956 ne sono state prodotte più di 100 milioni e sono entrate nelle case di milioni di famiglie. Massimo si ripromette di seguire le orme di suo zio una volta cresciuto. È il 1929, un anno nero per il mercato mondiale per via del crollo di Wall Street, ma anche l'anno in cui Massimo diventa grande. Ha 21 anni, la leggerezza della gioventù e la maturità di chi sa esattamente cosa vuole nella vita: far crescere l'azienda di famiglia. Prima lavora in officina, poi in amministrazione e per finire alle vendite. All'inizio degli anni 30 capisce prima degli altri che l'acciaio inossidabile si può utilizzare per fabbricare casalinghi e a questo si dedica con anima e corpo, studiando personalmente i macchinari ad hoc, finché nel 33 lancia Casa Mia, la batteria da cucina in acciaio inossidabile 18-8 che resterà in produzione fino al 55. Cominciano anche le grandi esportazioni, soprattutto nell'Europa del Nord, dove l'acciaio inox non è ancora molto diffuso. Quando il 1 febbraio del 1948 lo zio Emilio viene a mancare, è naturalmente Massimo, affiancato da Adriano, a proseguire l'attività. Ho cercato di portare avanti l'azienda con serietà, senza mai trascurare la mia vita. Per esempio, non ho mai abbandonato l'amore per la montagna e ho cercato di impegnarmi nell'aiutare chi non era fortunato come me. Generoso ed entusiasta, Massimo ha in effetti tutte le carte in regola per essere un grande uomo e un grande imprenditore. Soprattutto è molto intuitivo e moderno. Per esempio, capisce da subito che fare buoni prodotti è una base essenziale, ma che anche la promozione conta moltissimo. Negli anni 50 l'Agostina reclamizza i suoi prodotti su quotidiani, settimanali, radio, cinema e dal 63 anche TV. Ma Massimo vuole spingersi ancora oltre e quando vede per la prima volta la linea su cui nessuno punterebbe il becco di un quattrino, decide di andare avanti di testa sua. Il destino di Lagostina sarà presto legato all'eccentrico Osvaldo Cavandoli. Destini incrociati. A destini incrociati siamo alla fine degli anni 60 e due grandi uomini stanno per unire i loro destini. Il primo è l'eccentrico Osvaldo Cavandoli, per gli amici semplicemente Cava, disegnatore umile e geniale che è partito dalle vignette per gli amici ed è approdato ai cortometraggi di Carosello. Il secondo è Massimo Lagostina, illuminato imprenditore appartenente alla famiglia che su pentole e utensili da cucina all'avanguardia ha costruito una fortuna. Moderno e con lo sguardo sempre proiettato verso il futuro, Massimo finora ha puntato molto sulla pubblicità. Ma adesso ha in mente di fare qualcosa che lasci tutti a bocca aperta. Per vendere pentole e tegami, oggetti utili che vengono usati a lungo nel tempo, non occorre premere sul subconsciente dei clienti, ma soltanto informarli. Il salto in più è farlo con simpatia, divertendoli. Il Cava, dopo l'esperienza dei caroselli di Lancillotto, ha appena inventato un nuovo personaggio, essenziale, costituito da un unico tratto marcato che si sposta, prima chiamato Mr. Mark e ora Mr. Linea, è buffo e sfortunato con le donne e con la vita. Cade, sbatte, fa ridere tutti. Eppure nessuna agenzia pubblicitaria lo vuole, perché va di moda la ricchezza sia nei cartoni animati che nelle scenografie. Forse, ipotizza il collega Mordillo, proprio perché nella sua semplicità la linea è un'idea molto difficile, sia da mettere a punto che da capire. L'idea di fare una linea a chi vive, chi parla, l'idea era molto difficile e Cavando l'ha risoluto magnificamente. E per quello che è, il lavoro del Cavando è sì così eccezionale. Massimo Lagostina però sa davvero essere lungimirante. Quando va dal suo agente per parlare della nuova campagna televisiva e si trova davanti Cavandoli con le sue bozze, non ha dubbi. Vuole che la linea da quel momento in poi venga associata all'Agostina. La cosa che fin dal primo istante l'ha divertito, ricorda Cavandoli, è proprio il carattere umano di quel personaggio. Il carattere della linea, che è un po' acido, un po' borbottone, un po'... così anche alle volte villano, perché lui non riesce a spiegarsi e non riuscire a spiegarsi per lui è un problema, per cui lavora tutto a gesti. La linea viene presentato a Carosello con il nome di Agostino Lagostina, nome che viene tolto dopo la prima serie di cortometraggi. Sono poche le righe che servono per spiegare lo spot. Chi è Agostino? Un piccolo uomo vivace, dal naso realmente espressivo, con tutte le istanze e le preoccupazioni della vita moderna, figlio di una matita e di una mano. Ogni tanto sullo schermo fa irruzione la mano del disegnatore in aiuto alle esigenze del povero omino che ha bisogno di qualcosa, che sia una macchina, una ragazza o uno strumento musicale. La colonna sonora, vagamente jazz, è curata da Franco Godi e Corrado Tringali, mentre la voce, scelta insieme dall'Agostina e Cavandoli, è quella di Carlo Bonomi. La linea è nata con me, è nata quando ero piccolo, che divertivo gli amici parlando con questa vocina, dicendo anche magari qualche parolaccia così, facevo un ragazzino teppa della periferia. Ci fermiamo mai, neanche un minuto a pensare. Io scendo qui, andate avanti voi, perché mi viene da riderci su. Oh, ridere per non prendermi troppo seriamente, sai che non merita mai. Io voglio ridere fino quasi a morirmi, aiuto a vivere lontano dai guai. La linea ha avuto un'evoluzione anche come tratto, perché era più bassa, con un naso più lungo, poi pian piano si vede che con l'età si è un po' imbellita, ma il carattere è sempre quello. La linea è un fregato nella vita, è un scarognato, perché tanto nella vita normale quanto negli affetti non riesce mai a combinare niente. Di fronte a tutto ciò che è rivoluzionario, spesso le reazioni sono di straniamento e ci vuole un po' di tempo prima che la gente assimili pienamente il concetto. La linea di Osvaldo Cavandoli, nel suo tratto moderno, che si distingue da qualsiasi altra cosa sia mai stata fatta, ne è un esempio lampante. Alla prima messa in onda, il pubblico è attonito. Le prime volte che vedevano in televisione, è venuto fuori il primo Carosello, la gente smanettava, come si dice, col televisore, e dice: cos'è stato? Il televisore non funziona. Presto però grandi e piccoli si affezionano a quell'omino burbero legato alle pentole lagostine. Un piacere per Cavandoli e anche per Massimo, che da casa guarda soddisfatto l'idea della quale prima di chiunque ha creduto. Il successo è travolgente, prima in Italia e poi nel mondo, complice la parlata che non necessita di doppiaggio. Carlo Bonomi produce più che altro un borbottio, delle imprecazioni comiche incomprensibili, una specie di gramlot mescolato con il dialetto milanese. Anche i colori aiutano a comunicare perché cambiano in base allo stato d'animo del personaggio. Per farla breve, Cavandoli, con il supporto attento di Massimo Lagostina, si è inventato un non linguaggio che paradossalmente arriva a tutti. Poster, calendari, prodotti di merchandising. La linea supera Carosello ed esplode ovunque, più di qualsiasi altra pubblicità sia mai riuscita a fare. Jamiroquai, nel 2005, la cita nel suo video musicale di Don't Give Hate a Chance. E così l'anime Itadakiman, che fa parte della serie Time Bokan, in cui le silhouette che si muovono sulla linea sono quelle di tre personaggi della serie. Non solo, episodi de La Linea vengono proiettati continuamente ancora oggi sugli schermi all'interno delle stazioni nelle metropolitane di Berlino, Francoforte, Colonia, Stoccarda, Monaco di Baviera e altre città tedesche ai passeggeri in attesa dei treni. Mentre in Norvegia, dal 30 giugno 2008, il giornale Dagbladet pubblica quotidianamente un episodio del personaggio di Cavandoli. E mentre una pentola disegnata da Massimo è approdata addirittura al MoMA di New York, Lagostina nel 2007, con la morte di Cavandoli, ha deciso di cambiare per sempre il suo logo, così da omaggiare il grande maestro. Continua la tradizione di famiglia e con lei la mitica avventura della linea. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini Incrociati è anche un libro.